Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie di attualità attraverso il filtro dell'animalità. Siamo al fianco degli altri animali nel cammino verso la conquista dei diritti che spettano loro, in una prospettiva ecocentrica, quindi pensiamo che sia il tempo di superare la visione di un'unica specie, la nostra, con diritto di vita e morte su tutti gli altri viventi, o comunque con diritto di devastare il territorio e la natura a proprio uso e consumo, come è purtroppo stato negli ultimi secoli. Nella puntata di questa settimana, che è la numero 710, parleremo soprattutto dell'uccisione dell'orsa amarena avvenuta nel Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise per mano di un cacciatore. Recensiremo il film Animali Selvatici e manderemo in onda un'altra puntata del nostro reportage da Sparta, riserva dell'animalità, un rifugio per animali liberi e liberati dallo sfruttamento. Non mancherà anche questa settimana una ricetta vegana, cruelty free, a tema. La cura della parte musicale di questa trasmissione è affidata stavolta a Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Alla periferia di San Benedetto dei Marsi, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nella notte di giovedì 31 agosto 2023, un cacciatore con regolare tesserino ha sparato all'orsa amarena, uccidendola di fronte ai suoi due cuccioli. Un'orsa innocua, confidente, simbolo del Parco Nazionale. Amarena stava tentando di predare alcune galline nel pollaio di una persona che non ci interessa nominare, anche se il suo nome e il suo cognome nonché la sua foto sono stati ormai pubblicati ovunque. Un unico colpo in una zona vitale. L'assassino sapeva bene cosa stava facendo, era lucido e razionale come sanno essere i cacciatori allenati a non sbagliare la mira. L'ha colpita lateralmente, forando entrambi i polmoni con un solo colpo di arma offensiva. In passato Amarena aveva ricevuto degli spari con fucili a pallini, ma ne era uscita bene, non era quindi frontale, non era pericolosa, non era in fuga, si stava facendo i fatti suoi. Cercando di alzarsi, Amarena ha aumentato l'emorragia che l'ha uccisa. Bisognerebbe, in questi casi, smettere di parlare di bracconaggio e dire le cose come stanno. Dire che gli atti di bracconaggio, cioè l'uccisione di animali ai quali è vietato sparare, specie protette, viene compiuta da persone con un regolare tesserino, persone a cui lo Stato italiano ha concesso di poter possedere e usare un fucile. Noi lo vogliamo ricordare qui, nel nostro ordinamento c'è un principio generale che vieta ai privati cittadini di poter utilizzare le armi da fuoco. È solo l'amministrazione a concedere in via eccezionale e derogatoria alcune autorizzazioni strettamente personali per limitati e disciplinati impieghi delle armi. Noi pensiamo che questa deroga debba essere ristretta. Ci vogliono poi dei controlli psicologici molto molto seri e accurati, purtroppo non lo sono a sufficienza, e questi controlli dovrebbero anche essere rinnovati annualmente, perché l'equilibrio lo si può perdere anche nel giro di poche settimane. Sulla presenza dell'orsa in paese c'è poco da dire, l'orsa amarena non ha mai attaccato nessuno, era confidente, capitava spessissimo di vederla girare nei centri abitati, specialmente la notte. Come spiega il professor Boitani, esperto di selvatici, i pollai, così come le greggi, sono ovviamente il primo obiettivo per un orso. È cibo facile, disponibile, accessibile. Se pollai e greggi, ma anche rifiuti, non sono protetti adeguatamente, non ci si può scandalizzare se un orso fa quello che deve fare, cioè nutrirsi. E per nutrirsi gli animali selvatici scelgono sempre la strada meno dispendiosa in termini di fatica, perché in natura vige il criterio del massimo profitto col minimo sforzo. Le energie servono per campare, dato che in natura ogni caloria risparmiata è la possibilità di vivere un giorno di più. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo questa notizia è stata vissuta malissimo. Stefano Civitarese, dell'associazione Salviamo l'Orso, da anni impegnata sul fronte della salvaguardia dell'orso bruno marsicano, considera l'uccisione di Amarena un danno incalcolabile e considera insufficienti le pene nei confronti dei responsabili. C'è anche un'altra opprimente preoccupazione ed è il futuro dei suoi cuccioli. Inizialmente si era pensato di catturarli, ma poi si è deciso di non farlo perché i guardiaparco, grazie all'utilizzo di visori notturni, sono riusciti ad avvistare a distanza i due orsi mentre si stavano alimentando su una pianta di melo e si è tirato un sospiro di sollievo. Questo consente di lasciarli liberi e statisticamente questo darà a loro maggiori probabilità di continuare una vita selvatica e quindi in qualsiasi caso le possibilità di sopravvivenza di questi due orsi purtroppo non sono alte, le insidie sono tante, anche quelle naturali, come ad esempio le altre specie, gli altri predatori carnivori. Il parco sta diramando appelli rivolti ai media, ai cittadini, agli amministratori. Mettere da parte la curiosità, rinunciare all'idea di andare a vedere, non intralciare le operazioni di monitoraggio e, come sempre, procedere a basse velocità lungo tutte le strade che collegano l'area meridionale del Fucino con il parco. Se dovessimo indicare chi e cosa condannare, prima di tutto c'è il bracconaggio, che è molto diffuso nella Marsica, e poi azioni di disturbo arrecate perfino da soggetti istituzionali. Per esempio è stato istituito un relì, il relì di Villa Lago, poi c'è un'area cinofila ancora nel territorio di Amarena. Gli orsi non muoiono per la mania dei selfie o dei like sui social, che è un problema e che naturalmente esiste, ma non è la causa della loro morte. Gli orsi muoiono perché vengono investiti, bracconati e avvelenati. Il 70% degli orsi muore per queste ragioni. Il 99,9% degli orsi uccisi non erano confidenti, e non erano come Gemma o come Giacomina, che sono orsi confidenti e sono ancora fortunatamente vivi. Ciò non vuol dire che l'abituazione all'uomo sia una cosa buona, naturalmente non va bene, ma tale abituazione, quando è il frutto della libera scelta di un animale, può anche essere resa inoffensiva cambiando noi i nostri comportamenti. Quindi ci sono posti dove gli orsi entrano anche nelle cucine, mangiano una torta e nessuno li tocca. E poi ci sono posti dove gli orsi entrano nei giardini e qualcuno gli spara. A Scanno, in provincia dell'Aquila, nell'hotel Mille Pini, l'orsa Gemma, che ha circa 25 anni ed è una nota frequentatrice del paese, è entrata, ha mangiato una torta, è uscita e se n'è andata. Nessuno l'ha presa a fucilate. Si può, insomma, convivere con gli orsi con le dovute cautele, entro certi limiti. In ogni caso, il soggetto debole è sempre l'orso, è sempre l'animale selvatico, specialmente questo orso, del quale restano solo ormai una cinquantina di soggetti. C'è un evidente problema di informazione, di educazione, di capacità di adattamento nostro, di convivenza con il naturale, con gli altri animali, di civiltà, di accettazione anche di quello che è diverso da noi. D'altra parte, se alziamo lo sguardo, osserviamo le scarse risorse a disposizione dei parchi. Osserviamo l'indebolimento delle guardie forestali, osserviamo la provincia autonoma di Trento, dove il presidente Fugatti da anni sparge il terrore tra gli abitanti e i sindaci delle valli, ossessionando tutti con la presenza dei plantigradi e dei lupi. Se poi consideriamo il livello europeo, prendiamo dolorosamente atto che von der Leyen ha espressamente detto che metterà mano alla direttiva Habitat, una pietra miliare della conservazione degli habitat e della fauna. Quindi il contesto è sfavorevole per tutto il mondo selvatico. Manca la volontà di preservarlo, la fauna viene in generale tollerata solo come risorsa. Se al cinema cercate rassicurazioni e buon umore, non andate a vedere Animali selvatici, il film dell'ottimo regista rumeno Cristian Mungiu, in concorso al Festival di Cannes 2022. Abbiamo chiesto a Emilio Maggio, filmologo e critico cinematografico antispecista, di vederlo e recensirlo per questa trasmissione. Sentiamo. Questa volta parliamo di Animali selvatici, il nuovo film del regista rumeno Cristian Mungiu. Il cinema rumeno è quello che in questo momento è in grado di offrire, secondo me, i migliori spunti di riflessione sul collasso della civiltà occidentale. forse la storia meticcia della Romania, l'essere il crocevia di molteplici prospettive culturali e politiche che si sono succedute, hanno sicuramente formalizzato una cinematografia che soprattutto negli ultimi anni ha prodotto uno sguardo decisamente obliquo ed eterodosso rispetto alla omologazione delle immagini e del conformismo narrativo a cui ci ha abituato la melliflua retorica etnocentrica, europea. Filmmaker come Christian Mungiu, Radu Jude, autore del bellissimo Sesso sfortunato o Follie porno, che con coraggio affronta la gestione emergenziale della pandemia Covid-19 mettendone in evidenza il lato grottesco e surreale come nessun altro ha finora fatto, rappresenta solo la punta dell'iceberg di una cinematografia che meriterebbe maggiore attenzione e approfondimento. Mungiu, autore tra l'altro del fondamentale 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 2007, con Animali selvatici ci restituisce quell'oscurità che pervade la nostra contemporaneità. Per me, Animali selvatici è uno dei film più importanti visti recentemente in quanto a capacità di fornire uno spaccato della situazione geopolitica, culturale, sociale ed esistenziale contemporanea. Insomma, in poche parole, il caos in cui siamo tutti inesorabilmente immersi e coinvolti e che sembra materializzare quel tramonto dell'Occidente con cui il filosofo tedesco Spengler, dopo il devastante primo conflitto mondiale, preconizzava la questione della razza come dirimente per il futuro dell'Europa moderna. E proprio sulla questione della razza e sulla questione della specie si concentra il nuovo film di Mungiu. Se infatti gli animali selvatici del titolo possono essere intesi anche come individui umani costretti a sopravvivere sotto il gioco della governance neoliberista, mettendone in pericolo la sovranità soggettiva, la RMN, la risonanza magnetica nucleare che completa il titolo originale del film, allude emblematicamente ai nuovi parametri con cui la ragione capitalista esercita il suo potere attraverso dispositivi di controllo sulla convivenza democratica, dispositivi sempre più efficaci, trasparenti e invasivi, proprio come una risonanza magnetica che infatti, seppure capace di sondare e vedere parti di un organismo inaccessibile al nostro occhio nudo, non è in grado di restituire relazioni, affetti ed emozioni che danno senso a un'intera esistenza. Il microcosmo in cui Mungiu sceneggia il suo film, un piccolo e remoto villaggio della Transilvania, più vicino a Budapest che a Bucarest, dove è prevalente infatti la minoranza ungherese, è rappresentativo di tutte le dinamiche che materializzano le paure del mondo contemporaneo, la paura del diverso che può essere il migrante, in questo caso proveniente dallo Sri Lanka, il vicino di casa che non ha origini ungheresi e per questo viene percepito come un Rom, la paura di perdere il lavoro, come per il protagonista, sempre a disagio in un mondo che non riesce più a comprendere, e proprio per questo se ne distacca, preferendo un'esistenza priva di responsabilità e soprattutto priva di un punto di vista su quello che succede. La paura più grande, quella di rimanere soli in una società dove il profitto ha sostituito gli affetti e gli individui sono stati trasformati in risorse. Ma gli animali selvatici sono anche gli animali che vivono sul confine tra la civiltà domesticante del villaggio. All'inizio del film, quasi un prologo, il regista inquadra una locandina fissa all'ingresso del municipio in cui si avvertono gli abitanti sui pericoli causati da incontri ravvicinati con orsi o lupi e la misteriosa oscurità della foresta limitrofa. Il film è tutto giocato su questa dialettica negativa tra il villaggio che mantiene caratteristiche tribali come faide familiari e discriminazioni fondate sullo ius sanguinis, rappresentato da Mungiu come una sorta di bolla psichica dove trovare rifugio, e appunto la foresta simbolicamente percepita come la parte animale compromessa. Nell'intervista rilasciata al manifesto, Mungiu chiarisce che il male non viene da fuori, in questo caso dalla foresta, ma da noi stessi. La maggior parte degli orsi è stata ormai uccisa, non è quello il pericolo che viene dalla foresta. Dobbiamo guardare dentro di noi e addomesticare il nostro animale, afferma infatti il regista. A questo proposito, centrale risulta essere il momento dell'assemblea, girato in un unico, estenuante, quanto perfetto piano sequenza, in cui gli abitanti del villaggio devono deliberare insieme al sindaco, al prete, che nella prima parte del film chiede al protagonista Matthias, reduce da un grosso mattatoio in Germania in cui aveva trovato lavoro come migrante, di scannare e macellare il suo maiale, al responsabile dell'ordine pubblico, insomma alle figure istituzionali, sul destino appunto di alcuni lavoratori assunti in una panetteria provenienti dallo Sri Lanka, accusati di togliere lavoro ai residenti e di essere addirittura portatori di non si sa quali specifiche malattie infettive. Il finale, dai più giudicato come misterioso, rimanda invece, secondo me, proprio a quella dimensione definita come selvatica e quindi naturale, da cui ci siamo esclusi, includendola solo quando diventa proprietà di qualcuno. Gli orsi, volutamente finti, anche loro delle maschere teatrali, un coro tragico in fondo, che balenano davanti ai nostri occhi, alla coppia protagonista, si limitano a guardarci perché ci riguardano, sono muti e invisibili di fronte alla nostra paura, alla nostra indifferenza, proprio come Rudy, il bambino figlio di Matthias, che, unica figura all'interno della comunità dotata di quella particolare forma di intelligenza che si chiama sensibilità, è in grado di leggere il mondo, di leggere gli animali come di leggere gli umani. Epica, Sparta storica, Sparta mitologica. Poi c'è una Sparta contemporanea, che è già futuro. Sparta è un rifugio per animali liberi e liberati, che è anche una famiglia piena di soggettività animali. E si trova in Liguria, per la precisione a Ligassorio, una frazione sopra Pieve di Teco, in provincia di Imperia. Davanti c'è un rifugio, dietro c'è un pensiero. Il pensiero di un etologo antispecista, Francesco De Giorgio, e di sua moglie, José De Giorgio Schorl, facilitatrice sociale e formatrice nella relazione con l'animalità. Loro si definiscono persone che si dedicano con passione a facilitare un'evoluzione, esperti nella dimensione della dinamica relazionale interspecista, materia della quale si definiscono guide e pionieri, specialmente quando si tratta di capire e facilitare la soggettività. Francesco e José hanno vissuto molte vite, partendo da Salerno, passando per Napoli, Parma, dove Francesco si è laureato con Danilo Mainardi, poi Roma e l'Olanda. Sparta è un laboratorio di animalità, dove si fa esperienza di etica, soggettività e cognizione animale. Tutti elementi che Francesco e José studiano e vivono concretamente nel loro quotidiano da molti anni. E tutto questo si può imparare? Sì, si chiama Learning Animals ed è una scuola all'aperto nella quale tutto quello che conta è allenarsi a coesistere tra umani e altri animali, in ascolto reciproco, ponendosi domande, mettendoci attenzione, curiosità, fantasia e voglia di far parte della stessa avventura. In una dimensione allo stesso tempo nuova e antichissima. È imparare, ma è anche riappropriarsi. Dipende da quanto è potente la memoria delle tue radici profonde. Siamo alla quarta puntata del nostro reportage da Sparta, che abbiamo chiamato Voci Spartane. Troverete tutte le voci spartane nella nostra homepage www.restiamoanimali.it. Frizzante o naturale? Naturale io. Basta, basta, grazie. Oh, non mi cambia. Grazie. Bellissimo. Ah, questo sono io a 2 anni che vedo questa capra. E io adesso vado in Olanda inizi di agosto per un gruppo di animali. Poi com'è l'agenda? Perché allora, io in Olanda che abbiamo, esperta di agenda, io non dico. Ci abbiamo un po' di persone che ci seguono anche da 9-10 anni. Ci sono alcuni gruppi di cavalli che vivono a casa e ora è arrivato il figlio di uno di questi cavalli che poi ha fatto tutti altri giri, diciamo, e questa mamma è stato adottato da uno dei studenti e poi ultimamente si cercava a casa per questo figlio che però ha 16 anni, quindi... Addirittura una nostra che partecipa ai nostri corsi è andata a cercare e a riprendersi la mamma di un cavallo che aveva, che adesso ha di 30 anni, quindi se l'è dovuta cercare e se l'è presa e se l'è portata, diciamo. Però non costruire per riportare il nucleo, sì, perché ha capito che è importante l'importanza delle dinamiche, diciamo, per onorare, ecco, se vogliamo, questa mamma con una vita diversa, perché sì. Dopo 15 anni non è detto che sì, può essere che uno dice forse tu sei uno che sei parente di me, ma alla fine chi ti conosce? E quindi non è... Dopo tante esperienze negative... Ma la mamma era stata sfruttata nell'equità? Sì, esatto. Era in un maneggio. Sì. Mm. E questo figlio invece no? Mentre il figlio no, quindi ha aiutato la mamma a recuperare. Ah, quello di... Però quest'altro sì, figlio Ingrid, sì. Invece ha vissuto sempre nel libero. Però ecco, si torna a questo fatto delle galline in una fattoria felice, quindi cavallo non sfruttato, ma neanche compreso. E quindi cioè, questo cavallo vive con l'idea che nella vita non ci si capisce. E quindi uno non fa più domande, rimane lì, dice, non so. E quindi lui ha un'esplosione di vita dentro. E quindi per questo va a facilitare. Com'è andata negli Stati Uniti? Ah, sì. Va bene, anche lì è stata un'esperienza per il santuario fantastica, perché io arrivo lì, in questo santuario in Florida, iper ottimizzato, tutto in ordine, tutto preciso, tutto pulitissimo, i paddock grandissimi, però tutti... Tutto gestibile, tutto ottimizzato. Tutti puliti, diciamo, cioè puliti che non ci avevano... Tutto non così, no? Non con gli alberi, le vegetazioni. E quindi dopo una settimana ho detto, ragazzi, qua dobbiamo mettere un po' più in disordine. Ci vuole un po' di disordine. Quindi ho iniziato a prendere palme, perché c'erano tutte palme intorno, quelle secche cadute, a buttare palme in mezzo. Ed è stato bellissimo perché cavalli, anche loro che sono stati, che hanno subito sfruttamento, tensioni, eccetera, eccetera, e quindi avevano sviluppato anche delle forme di aggressività anche verso gli umani, verso gli altri cavalli, eccetera. Con tutto questo arricchimento hanno usato sempre gustato l'università, massimo rendimento, un minimo sforzo. Io mi esploro tutto, quindi mi concentro, studiamo insieme, facciamo delle cose insieme a quest'umano, insieme tra cavalli, e quindi la reattività si è abbassata tanto. Quindi un po' più di disordine, un po' meno di efficienza, un po' più domande permette, da fare. Crea degli squarci, cioè il disordine crea degli squarci dove poi l'animalità si può, delle crepe, no? Crea. Non dove l'animalità totale. Si può infilare, diciamo. Mi viene in mente la mostra di Zimborska che abbiamo visto a Genova, quando c'è una poesia in cui lei dice: preferisco l'inferno del disordine all'inferno dell'ordine. In effetti l'inferno del disordine non te lo vedi come una cosa infernale, no. Diciamo. Ci sono tante opportunità. Esatto, sono quelle, cioè nascono, ci rimani, sono più scelte, creativo, puoi fare più decisioni, mentre invece nell'ordine le scelte sono ridottissime. Si impoverisce. E quando hai scelte ridotte, lo stimolo. La reattività sale. Quando ti riducono le scelte, l'energia va sopra. Ah, diciamo. Molto, molto breve, molto fine, diciamo, che tendenzialmente lo stimolo è molto legato alla reazione. Aspetta. Ma chi viene prima, lo stile o la reazione? No, ma non sono interessanti. Cioè, anche qui è molto ricca, no? Come ricco come ambiente, però cioè, la pianta non ci sta stimolando, ci sta intrigando. È l'intrigo invece che venire stimolati da qualcosa, perché lo stimolo, la stimolazione è un po' più meccanicistica. Quindi è meglio l'intrigo. Meglio l'intrigo. L'intrigo perché l'intrigo entra in moto la tua fantasia. Esatto. Tu sei libero di usare la fantasia. Quando invece c'è lo stimolo sei hai molta meno fantasia. Ma oggi si parla dei stimoli perché è tutto già appiattito. Cioè se tu sei già annullato, se tu sei già assimilato, se vogliamo tornare un po'... da un'abitudine, da una routine, diciamo così, tu cerchi stimoli, ecco, ma questo è tutto un altro filone ancora, però uscire al di fuori della propria zona di comfort, no? Perché così bla bla. No, fuori dalla zona di comfort ci sono i stimoli. E quindi uno va fuori lì, perché se non ci va non fa nulla, ma non fa nulla perché non riesci più a intrigarsi. Quindi invece che saltare fuori dalla tua area di comfort, come dice la psicologia, in realtà noi preferiamo far esplorare i confini della tua area di comfort. A forza di esplorarli tu li decostruisci, sei tu a decostruire. Frequentare i confini, frequentare i propri confini, che poi quindi si allargano e il mondo diventa la tua perché area di comfort. Perché l'incontro è sempre sul confine. Decostruire i confini. Solo sul confine c'è un incontro. Esatto. E allora renderli permeabili. Sparta è tornato qui che ancora gli dice, ma che fanno? Li tengo d'occhio. Però io adesso faccio così. Perché voglio fare, se no arriva l'ora qua in un attimo. No, bisogna andare. I see the sky and now it holds my life. Here I am, it's not my land, I cry. E anche questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana. Anche questa ricetta, come tutte le altre, è a tema. Stavolta il tema è la Romania, visto che il film Animali Selvatici, che abbiamo recensito, è di un regista rumeno ed è ambientato nel suo paese. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. In omaggio a Christian Mungiu, regista di Animali Selvatici e alla sua terra, questa volta vi racconto la ricetta della zakuska rumena. Gli ingredienti per 4 persone sono 2 melanzane, un peperone rosso grande, una cipolla bianca, 250 g di passata di pomodoro, un cucchiaino di zucchero di canna, alloro, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Pulite le melanzane, il peperone e fateli cuocere interi in forno a 200 gradi per circa 30 minuti. Nel frattempo sbucciate e tritate la cipolla. Fatela scottare con poca acqua e quando questa sarà ritirata aggiungete 2 cucchiai di olio, qualche foglia di alloro e lasciate soffriggere bene. Spellate il peperone e pulitelo dai filamenti interni. Sbucciate la melanzana e tritate entrambe con un frullatore a immersione. Unite la polpa di pomodoro e la crema di melanzane e peperoni alla cipolla. Aggiungete un altro cucchiaio di olio e un cucchiaino di zucchero. Aggiustate di sale e pepe e quando la salsa inizierà a bollire, abbassate la fiamma e lasciate ritirare a fuoco lento per circa un'ora, mescolando spesso. Dovrete ottenere una crema morbida. Una volta pronta, potrete consumare la salsa oppure conservarla sotto vuoto in barattoli di vetro. Per questa puntata è tutto, vi saluto e vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Roberta Marino, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata 711 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.